TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. In aumento il disagio giovanile, lo confermano i sanitari del Burlo di Trieste. Accessi in pronto soccorso per crisi d'agitazione, attacchi di panico, mai visti tanti casi in pochi mesi. A Pordenone prende forma la trasformazione del centro valle in sede universitaria. Consegnati i progetti per il nuovo polo che entro il 2027 ospiterà i corsi sanitari. Entro il 2035 l'Europa ci chiede di proteggere le nostre acque da agenti inquinanti come sostanze chimiche artificiali, micro e macroplastiche. Come verrà adeguato il depuratore di Servola? Pazzi per il meteo, ormai un fenomeno, quello della passione per le previsioni a livello materiale, che conta oltre 80.000 follower sulla pagina Facebook dedicata. Ancora un cordiale buongiorno da parte di Maria Spezia e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa nuova edizione del nostro giornale radio. Accessi, l'avete sentito nei titoli, in pronto soccorso per crisi d'agitazione e attacchi di panico. Molti i casi in pochi mesi al Burlo. E l'onda lunga della pandemia da Covid, dicono i sanitari, in difficoltà a gestire la salute mentale dei ragazzi quando i ricoveri durano anche 6 mesi. Crisi d'agitazione e attacchi di panico, ragazzi dai 14 ai 16 anni che arrivano in pronto soccorso in preda ad atti violenti contro di sé e contro gli altri. Dalla pandemia in poi il problema è scoppiato e forse ora siamo di fronte all'onda lunga, i casi sono esplosi. Il direttore del pronto soccorso del Burlo di Trieste dà i dati: 96 accessi per crisi d'agitazione in 7 mesi, l'anno precedente erano la metà, ma in un intero anno. Siamo appunto con Alessandro Amadeo, le chiedo, voi che cosa state osservando? Ne abbiamo osservato un aumento progressivo di casi di questi ragazzi che arrivano appunto tra i 14 e i 16 anni con crisi di agitazione in pronto soccorso, questo dalla pandemia, come dicevamo prima, con però un aumento direi quasi esponenziale negli ultimi mesi, nell'ultimo anno quantomeno. Crisi d'agitazione cosa vuol dire? Sono ragazzi che nell'ambito scolastico, ma più spesso in realtà nell'ambito familiare, iniziano a diventare violenti o hanno proprio delle crisi vere e proprie di agitazione, con aggressività verso se stessi, verso gli altri, che portano addirittura i genitori e le famiglie a richiedere il supporto medico del 118, che poi porterà i ragazzi in pronto soccorso. Onda lunga della pandemia, questi ragazzi avevano 11-12 anni, erano alle medie durante gli anni del Covid 2020-2021 e adesso si vedono i risultati. Purtroppo questa è una delle cose che stiamo osservando, sono gli stessi ragazzi che hanno vissuto la pandemia in un momento molto critico all'inizio dell'adolescenza, che in qualche modo risulta molto semplice correlare queste due cose come un nesso di causalità. Ragazzi rotti li definisce, perché? Perché non funzionano in ambito familiare, non funzionano in ambito scolastico, vuol dire che non stanno bene nei contesti in cui dovrebbero star bene, e poi finisce anche che spesso non stanno bene neanche coi propri pari e quindi cercano diciamo così delle esperienze particolari che possono passare attraverso l'abuso di sostanze o esperienze a rischio. Trieste, Navi Italiani, TGR Friuli, Venezia Giulia. Voltiamo pagina, il trasporto pubblico locale è al centro di un'audizione della 4ª Commissione Permanente del Consiglio regionale. Si discute della gestione del trasporto pubblico locale su gomma, con attenzione ai disservizi nella Bassa Friulana e alle corse urbane mancate a Udine. L'audizione era stata richiesta da consiglieri d'opposizione oltre un anno fa. Nel 2025 il 10% delle corse di arrivo a Udine non è stato effettuato. Da qui la convocazione della 4ª Commissione del Consiglio regionale, chiamata a fare il punto sui disservizi del trasporto pubblico locale, soprattutto a Udine nella Bassa Friulana. Per i consiglieri di opposizione il quadro resta critico. Alla Regione è stata chiesta maggiore vigilanza, chiarezza su penali e sull'utilizzo dei 9,9 milioni di euro destinati a qualità e sicurezza del servizio. I sindacati parlano di un sistema che non funziona. Denunciano la carenza di autisti, condizioni di lavoro poco attrattive, turni pesanti e forti differenze tra aziende. Per i rappresentanti dei lavoratori il consorzio non basta, serve un soggetto unico regionale in grado di governare il sistema e uniformare contratti e trattamenti. Dal fronte delle aziende l'amministratore delegato di Arriva Udine, Diego Regazzo, ha riconosciuto le criticità legate soprattutto alla mancanza di autisti, un mestiere non più attrattivo come in passato. Ha annunciato 24 nuove assunzioni, a cui si aggiungono 7 in Carnia, spiegando che il servizio servizio è ancora impostato su esigenze degli anni 90 e che restano problemi nel servizio urbano di Udine. A intervenire anche Maurizio Marzi Wildauer, presidente di TPL FVG, che ha parlato di criticità note e condivise con i sindacati. Un problema non solo contrattuale ma anche culturale, legato a lavori a turnazione sempre meno appetibili, con la disponibilità a proseguire il confronto. In chiusura, Trieste Trasporti, l'amministratore delegato Agnello Semplice ha rivendicato un modello efficiente. A Trieste le corse non effettuate si fermano allo 0,3%. Trieste, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca a Trieste: la polizia locale ha arrestato un 49enne che aveva sottratto in un negozio del centro una giacca di notevole valore. L'arresto è avvenuto in seguito alla segnalazione delle commesse subito dopo il furto, che hanno riferito agli agenti in servizio sul posto anche di essere state aggredite dall'uomo mentre cercavano di fermarlo. Una perquisizione ha consentito agli agenti di accertare non solo il furto della giacca, ma anche quello di alcune confezioni di profumo a loro volta sottratte in altri negozi per un totale di 1.000 euro. Gli accertamenti sull'uomo, condotti nella caserma San Sebastiano, hanno fatto emergere a suo carico diversi precedenti penali, tra cui rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il comando di Trieste della Guardia di Finanza ha chiesto al comune del capoluogo e della provincia, quindi Muggia, Duino Resine e San Doligo della Valle, elenchi dei cittadini iscritti all'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, oltre a chi ha cessato l'iscrizione dallo scorso anno. La richiesta è finalizzata a verifiche sulle posizioni fiscali di persone che hanno trasferito in modo formale la residenza all'estero, venendo dunque meno agli obblighi dichiarativi dei redditi nei confronti dell'amministrazione finanziaria italiana. A Trieste, a fronte di circa 228.000 residenti, risultano iscritti all'AIRE oltre 38.000 cittadini, dunque circa il 17% della popolazione, con presenze anche in paesi con regimi fiscali esenti o agevolati. Il comando di Trieste ha precisato che l'iniziativa rientra nell'ordinaria analisi di rischio e pianificazione delle attività ispettive che verranno implementate nei confronti degli eventuali contribuenti solo se dovessero emergere elementi attestanti fattispecie evasive. Arrestato e denunciato il presunto responsabile per una serie di furti notturni nell'Isontino. Per circa un mese di notte ha messo a segno i furti in negozi e centri sportivi nei comuni di Gradisca di Sonzo, Romans e Sagrado, da solo spostandosi in bicicletta. Entrava in azione intorno a mezzanotte, asportando prevalentemente denaro contante e bevande alcoliche. Il numero dei furti aveva causato una certa preoccupazione tra i commercianti. L'uomo è stato individuato dopo l'analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione dell'uomo, dove hanno rinvenuto gran parte della rifurtiva, che è stata recuperata e restituita ai proprietari. 12.38, passiamo al meteo. Il cielo sereno in montagna, coperto sul resto della regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste e Pordenone 7,5 gradi, a Gorizia e Udine 5,5 gradi. In Aramontana, Forni di Sopra e Piancavallo 4, Tarvisio e Tolmezzo 2,5 gradi, Sappada 1 grado sotto lo 0, in quota sul Monte Lussario 1 grado e sul Monte Zoncolan 0 gradi, sulla costa grado 6, a Lignano 4 gradi e 5 decimi. Le previsioni: questo pomeriggio su pianura e costa avremo cielo coperto con possibili piovigine sparse sul Carso e lungo il confine con la Slovenia. In montagna in prevalenza nuvoloso, ma con qualche schiarita sulle Alpi Carniche più vicine al Veneto. Zero termico in calo a 1600 metri circa. Domani cielo in prevalenza coperto con possibili piovigine sparse sul Carso e lungo il confine con la Slovenia. Zero termico a 1600 metri. Entro il 2035 l'Europa chiede di proteggere le acque da agenti inquinanti come sostanze chimiche artificiali, micro e macroplastiche. Abbiamo chiesto al direttore di Acega, SAPS AMCA, Paolo Jerkic, come verrà adeguato il depuratore di Servola. Tutti gli impianti italiani, ma non solo italiani, anche europei, dovranno adeguarsi a questa nuova direttiva europea, con varie date scaglionate, insomma, nel corso del tempo e dovute anche alla potenzialità dell'impianto. Si tratta di abbattere con dei sistemi nuovi, sistemi diciamo cosiddetti quaternari, che sono innovativi, sistemi di trattamento nuovi, i cosiddetti microinquinanti. I PFAS fanno parte di questi microinquinanti insieme ad altre sostanze, chiamiamole nocive, tossiche, che possono essere i farmaci, piuttosto che i cosmetici, cosmetici, l'industria della cosmetica, ma anche altre industrie, insomma, chimiche di altro tipo, insomma. Per quanto riguarda il depuratore di Servole in particolare, abbiamo già un programma di massima, ma attendiamo ovviamente la legge italiana, che deve essere ancora recepita, insomma, e deve ancora uscire. Abbiamo un programma di massima, ma si prevede che entro il 2033, massimo 2035, questo impianto sia assolutamente adeguato. Ovviamente c'è tutto un iter di progettazione, approvazione, collaudi, eccetera, prima. Nel frattempo l'acqua che beviamo è ancora potabile, sana, possiamo stare tranquilli? Assolutamente sì, se parliamo di acqua potabile, quella del nostro rubinetto è un'acqua assolutamente buona. I pozzi dove peschiamo l'acqua potabile a Trieste, a San Pier di Sonzo, sono pozzi molto profondi, non hanno nessun tipo di problemi dal punto di vista dei PFAS, ma anche di altre sostanze. Quindi sicuramente sì, nessun problema. Servola, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. A Pordenone prende forma la trasformazione del Centro Valle in sede universitaria, consegnati i progetti per il nuovo polo che entro il 2027 ospiterà i corsi sanitari. Prende forma la riqualificazione degli attuali spazi dell'Agenzia delle Entrate in sede universitaria. Il Consorzio ha consegnato il progetto di fattibilità tecnico-economica al Comune, passaggio che consentirà di avviare la gara per l'esecuzione dei lavori che dovrebbero concludersi entro fine 2027. Paolo Candotti è presidente del Consorzio Universitario di Pordenone. Il prossimo passo è la definizione della gara d'appalto, quindi sia per la progettazione esecutiva sia poi per l'appalto dei lavori e poi l'esecuzione dei lavori che si svolgeranno presumibilmente dall'estate, dalla primavera estate di quest'anno fino all'autunno del 2027. Al Centro Valle, che da anni attende una riqualificazione, sono partiti carotaggi per le verifiche antisismiche. Andrea Zanni, direttore del Consorzio Universitario. Sono lavori di analisi geologica che completano le fasi di verifica, di progettazione, di riqualificazione antisismica. Servono per approfondire le risposte del terreno, perché il progetto di riqualificazione per il sisma è un progetto molto avanzato. I nuovi spazi ospiteranno fino a 700 studenti dei corsi di indirizzo sanitario e ITS più uno studentato da 40 posti. Ancora Candotti. La visione è di trasformare il Centro Valle in un luogo vivo, un luogo pulsante, non solo per le attività direzionali di ufficio come attualmente, ma è un centro in cui i giovani vivano e frequentino questi spazi di giorno, di sera, e che possano, diciamo, recuperare quest'area della città bellissima, vicina a tutti i servizi e vicina al centro. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. La neurochirurgia di Udine continua a essere protagonista nella formazione, con il corso di formazione teorica e pratica per neurochirurghi, in gran parte già specializzati, interessati ad apprendere le più recenti tecniche. Il corso ha accolto medici provenienti per lo più dall'estero. Nel corso dei giorni della formazione è mirata alle complesse patologie neurovascolari, si è trattato anche di tumori della base cranica, tra cui gli aneurismi cerebrali, le malformazioni arterovenose, i meningiomi e i neurinomi dell'acustico. I partecipanti hanno avuto la possibilità di apprendere ed esercitarsi con modelli realistici nei laboratori che erano creati all'interno degli spazi. Dalle Alpi al plateau antartico per conservare la storia del clima è stato inaugurato oggi l'Ice Memory Sanctuary, l'infrastruttura scavata sotto strati compatti di neve dove sono state trasferite le due carote di ghiaccio alpino estratte dal Monte Bianco in Francia e dal Grand Combin in Svizzera. Contenenti la memoria dell'atmosfera del passato, le carote di ghiaccio sono ora conservate in sicurezza alla stazione Concordia, in una grotta nel ghiaccio progettata per preservare i campioni dei ghiacciai montani per le future generazioni di scienziati. Le carote sono state trasportate dalla rompighiaccio Laura Bassi dell'OGS di Trieste dopo un viaggio di più di 50 giorni di navigazione. Poco fa sono stati presentati i risultati del progetto del contratto di fiume del Roiello di Pradamano. Il Roiello fa parte dell'antica retta dei Rogge che hanno alimentato la città di Udine. La presidente del Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana, Rosanna Clocchiatti, ci ha indicato gli obiettivi del progetto. Noi stiamo lavorando ormai da anni sul territorio per ripristinare quella che era una funzionalità di un corso storico. Questo è un corso storico che passa sostanzialmente tra due comuni, attraversa due territori importanti per la provincia di Udine, e il ripristino ha più funzioni, che è quella legata sicuramente alla funzione idraulica, che compete poi al consorzio di bonifica, e anche gli ultimi lavori che sono stati fatti erano in questa funzione. Parliamo di un ripristino di circa 60.000 euro per mettere in sicurezza sicurezza, garantire la funzionalità idraulica e anche ripristinare e ricalibrare questo tipo di torrente, di fiume e di canale sul territorio. Poi c'è tutta l'altra funzione, che è quella agricola, turistica, ambientale, perché ha uno scopo ambientale, e storico, e quindi di possibilità di essere fruito da tutti quelli che poi su questo territorio viaggiano. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il servizio anagrafe del comune di Gorizia si sta organizzando per far fronte al grande afflusso di cittadini che nei prossimi mesi dovranno rifare la carta d'identità. Dal 3 agosto prossimo, infatti, le carte d'identità cartacee non saranno più valide, poiché non più corrispondenti ai requisiti minimi di sicurezza né per l'espatrio né per il riconoscimento sul territorio nazionale, in modo indipendente dalla data di scadenza. A stabilirlo è stato il Ministero dell'Interno. A Gorizia i documenti in versione cartacea da sostituire con la carta d'identità elettronica, la cosiddetta CIE, sono poco meno di 7.000, quindi un numero considerevole, considerando che sono circa 5.200 all'anno le carte d'identità emesse dagli uffici comunali goriziani. È consigliabile rivolgersi per tempo all'anagrafe del comune per prenotare un appuntamento per il rilascio di un nuovo documento in formato elettronico, evitando le code dell'ultimo momento e tenendo conto che i mesi estivi sono quelli in cui le persone si spostano per andare in ferie. Il clima che cambia, gli eventi estremi sempre più frequenti, li racconta da 10 anni la pagina Facebook Pazzi per il Meteo Goriziano, nata dalla passione per la meteorologia del suo fondatore. Ne abbiamo parlato questa mattina. Buongiorno Regione. Una pagina Facebook amatoriale dove vengono condivise le previsioni del tempo, informazioni e aggiornamenti in tempo reale sulla situazione meteorologica sul territorio. È Pazzi per il Meteo Goriziano che ha scatenato una vera e propria meteomania, considerando che oggi, a 10 anni dalla sua creazione, conta più di 80.000 followers. A fondarla Daniel Tescari, che si definisce cacciatore di tempeste. Ma la passione in realtà nasce fin da piccolo, insomma, la passione per la natura in genere, e questo poi mi ha portato a interessarmi di temporali, di tornado, di eventi estremi, e poi questa esperienza nel campo di anni e anni mi ha portato alla decisione, insomma, di aprire questa pagina Facebook. Grazie anche alla partecipazione dei followers, la pagina è diventata un punto di riferimento per sapere se pioverà o ci sarà il sole. In sinergia con la Protezione Civile, condivide anche le allerte meteo in vigore. È d'aiuto così nel diffondere la consapevolezza del rischio di eventi meteo estremi, a partire dai tornado e dalle grandinate, come quella di Mortegliano del luglio del 2023. Il cambiamento climatico è piuttosto visibile, in quanto la fenomenologia in genere è diventata più intensa, anche le piogge, vediamo, insomma, tutt'oggi che sia i temporali che le perturbazioni in genere riescono ad elargire molta più acqua, molte più precipitazioni, e abbiamo queste situazioni in cui ci sono delle alluvioni lampo oppure temporali piuttosto intensi. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. La nostra regione si appresta a ospitare la Coppa del Mondo di sci alpino femminile presso il comprensorio di Tarvisio, per la quarta volta nella storia, di nuovo dopo 15 anni. La pista di Prampero accoglierà le atlete che si cimenteranno nelle gare di velocità tra il 17 e il 18 gennaio. Anche in questa edizione l'ARPA regionale fornirà assistenza meteorologica alla manifestazione, offrendo standard elevati sia nella fase di monitoraggio, che permette la preparazione delle piste, e l'adeguato approccio tecnico alle atlete e alle loro squadre, sia nella fase di previsione a breve e medio termine. Sarà in carica per i prossimi 3 anni il direttivo dell'Associazione Regionale Alberghi Diffusi del Friuli Venezia Giulia, che si è riunito a Udine nella sede di Confcooperative. Renzo Carniello, già presidente dell'attuale Albergo Diffuso di Sauris, è stato confermato come presidente dell'associazione, che è nata nel 2017. L'assemblea ha anche tracciato un primo bilancio dell'andamento della stagione invernale 2025-2026 e delle prime prenotazioni per i prossimi mesi. La stagione invernale potrebbe chiudersi in crescita del 10%, secondo quanto anticipato dagli operatori. Diversi poi segnali positivi per la stagione estiva, a fronte delle prenotazioni che si sono spinte fino al prossimo Natale, confermando così la tendenza ad anticipare sempre di più la prenotazione delle vacanze. Secondo i dati rilevati da Confcooperative, le presenze negli alberghi diffusi della regione sono cresciute del 31% negli ultimi 4 anni. Nell'ambito del Trieste Film Festival, il progetto Jugo Logo, che custodisce un archivio fisico e digitale di loghi creati nella ex Jugoslavia, che da oggi è in mostra a Trieste negli spazi del Cavò in via San Rocco. L'inaugurazione sarà alle 18.30. L'esposizione propone approfondimenti sul mondo del turismo, del teatro e del cinema, oltre che per le designer donne che hanno contribuito a creare l'immaginario visivo dell'epoca. L'allestimento sarà visitabile fino al 21 febbraio, dal lunedì al sabato, dalle 17.30 alle 19.30. Era l'ultima notizia del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Isabella Parutto, per la parte tecnica in regia Mauro Cumin e Riccardo Ostoic. Da parte di Maria Spezia e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.